Disco Della Settimana. Riuscire ad ascoltarvi fino anche mentre parlo. Ed ho di carta un palmo ed ho penna nell'altro. Rimando e mi domando se ho domande che rimando. Vivo del soul che oggi rimane, e non è poco, sai. Credo ancora nell'hip hop, religione nei formicai. Il mio flusso di coscienza si esprime in rime ormai. Il canto di un organo gospel, ma con i tasti della CAI. Ed urla a questo mare ciò che non riesco a definire. Oggi sento che quest'alba è musica in divenire. Ed i dialoghi sono strofe, oblique tra le righe. Oggi non v'è silenzio, ma crepiti o di vinile. I due bicchieri di ieri rimasti a raccontare il vizio. Ti chiesi da dove vieni. E tu partisti dall'inizio. Siamo figli di un dio nato alla frontiera, sotto le croci di un traliccio. Figli di un dio migrante, figli di un dio meticcio. Ora la tua barca offre le vele a noi. Oggi il silenzio è una risposta a sì. Le carte nautiche di una pangea che non ritroverò. Non perdo più il mio nord quando io ancora briciole di tabacco sopra il cuoio oscuro. Oggi il silenzio è una risposta a sì. Accendi gli occhi ai palazzi che il sole è già sceso da un po'. Di cercarlo. Sto sui quattro quarti in cerchio, libera nel cielo i fumi. So che mi son rimasti in gola i nodi sciolti dalle funi. Risalire tra gli scogli e gusci acuti dei paguri. È vero, mi ha aperto le carni, lascio che il sale le curi. Braccia, cingono altre braccia, in due una sola giacca. I ricordi che ritornano, qui li chiami amrisacca. Gridando al mare si impara, la rabbia si rintana. So che mi mancherai. Se vedi che ancora vicino immaginarti, o so che saresti a casa. Tra gli alberi d'arancio che cingono le moschee, occhi che si trascinano da una cumbia come piano. Rilego in un diario le rime di un anno, nascoste tra la carta come gocce di rimedi in un panno. Oggi il silenzio è una risposta a sé. Io ascolto e non parlo. La coda è la mia bussola, punta al sud del mondo. Il nord ho smesso di cercarlo. Ora la tua barca offre le vele. Le carte nautiche di una pangea che non ritroverò. Non perdo più il mio nord quando io ancora briciole di tabacco sopra il cuoio oscuro. Oggi il silenzio è una risposta a sì. Accendi gli occhi ai palazzi che il sole è già sceso da un po'. Non perdo più il mio nord quando ho smesso di cercarlo. Erika, lo sai che oggi è il Blue Monday? Lo so, infatti Mauro te lo volevo dire, cioè io oggi, non lo so, mi sento così, non ho più voglia di fare niente, cioè non so se la musica in un qualche modo può aiutarmi, però mi sento proprio, hai presente Inside Out? Ti ricordi quel cartone d'animazione della Pixar, forse, non lo so, in cui si parlava dei diversi stati d'animo? Oggi c'è il personaggio blu. Esatto. Tristezza. Esatto. Un po'. Però non solo, dai, perché alla fine, ok, oggi il Blue Monday è considerato, per qualche studio scientifico che non approfondiamo, il giorno più triste dell'anno. Sì, ne avranno parlato in radio sicuramente, però tu non hai questa sensazione un po' di... Vabbè, ma la tristezza fa parte della vita di ognuno di noi. E sarebbe carino anche poesia. Esatto, sarebbe carino anche capire perché poi oggi, fino al primo, al terzo lunedì di gennaio, ci sono gli strascichi delle feste, del Natale, del Capodanno, ye ye ye. poi ti rendi conto che basta, no? le prossime feste sono fra mesi e dici che due palle. Ah, ok. Fortunatamente però a Radio Città Fujiko ci sono tantissimi programmi, uno di questi, forse più di uno di questi programmi si occupa di psicologia, quindi noi ci occupiamo di quello che sappiamo fare, cioè presentare dei dischi, che non si sa mai che mi tira anche su di morale questa cosa qua, no? Ecco, perché poi c'è anche un altro sentimento che ogni tanto è un po' triste, ogni tanto un pochino più allegro, e che in Brasile viene descritto con una parola che non ha una traduzione vera e propria nelle altre lingue. Allora, si viaggia anche con questo disco della settimana? Esatto, potrebbe essere nostalgia, ma in realtà no. La parola è saudade, che è scritta saudade. Ah, infatti io avevo letto saudade, dico cos'è saudade? Ah, la saudade è quella parola che ho letto in portoghese, perché le parole che in portoghese brasiliano che finiscono con ade, così si leggono agi, saudade. Ah, saudade, a me mi sapeva di una roba allegra la saudade, tipo... Beh, quella nostalgia un po' malinconica, ma anche un po' allegra, che ti viene pensando a cose passate e belle. Ah, okay. È una malinconia positiva? Ecco, mettiamola così. Comunque saudade è anche il nuovo album della band che vi presentiamo oggi, che si chiama Oremeta. Oremeta, esatto. Infatti stavo spiegando che tutto questo, questa supercazzola iniziale che abbiamo fatto, no, era per spiegare che arriviamo a saudade, come tu mi spiegherai, che è questo album composto da 10 tracce, che è uscito pochissimi giorni fa, perché in realtà è stato rilasciato il 15 gennaio, venerdì scorso, e che è molto particolare perché si tratta di un genere, diciamo, uno di quelli che noi normalmente non presentiamo molto spesso, perché si tratta di indie ma anche di rap. Sì, diciamo che i due generi principali, poi prende anche influenze varie, vengono dall'indie e dal rap, appunto. Io direi che questo album, intanto che lo ascoltavamo, diciamo, ci ha colpito per diversi fattori, ed è stato anticipato da due singoli. Io ne vorrei far ascoltare uno adesso, che si chiama Quarantena. È la seconda traccia di Saudade, ha un intro molto particolare e ha un certo senso a me, ma anche un po' commosso come intro. Quindi facciamo ascoltare anche l'intro parlato. Facciamo ascoltare anche l'intro parlato, perché secondo me rende un pochino l'idea di quello che hanno voluto trasmetterci gli Oremeta con queste 10 tracce, e in particolare con Quarantena. Quindi adesso ascoltiamocela e vi diciamo che di questo brano loro dicono che ovviamente è nato durante il lockdown ed è partito da un po' di accordi di chitarra, quelli un pochino abbozzati, no? Degli accordi timidi, ed è stato un po' il modo che hanno avuto gli Oremeta, appunto, per raccontare su carta i loro affetti, le situazioni che ovviamente loro, come tutti noi, ci siamo trovati a vivere in una maniera, insomma, un po' particolare, ci ha coinvolto tutti, e che ci mancavano davvero tanto. Ad esempio dicono le cene tra amici, tramonti sul mare e gli abbracci privi di paura. Ecco, questa è la loro spiegazione. Dai, lasciamo con la traccia e poi ne parliamo. Ciao nonna, come stai? Sto bene, a parte il dolore al ginocchio. Siamo a casa, Chiara. Quando vieni stanno lontano, tutti lontano. È passata una settimana già, Via Giulio, ho visto pure a lui, sulla terrazza, e pure l'amico tuo. Dario? Dario, sì. Ok. Vabbè, l'importante è che superiamo questa fase. Ogni tanto c'è via quasi lo sconforto, insomma, perché quando sei obbligato vorresti uscire. Don't know why, da parte resterò. Ripongo vestiti che forse mai più userò. Il rumore dei piatti taglia il velluto che veste il mio sonno. Le altre voci allargano la maglia. Potrei aiutare, già che ci sono. Già che ricoprono il letto, un intero mosaico in attesa. Sul muro una pagina appesa racconta una vecchia infezione rappresa. A una spalla, mica m'appoggio, verso la cucina m'affaccio. Da un odore che è quasi un assaggio. Il cibo ha un sapore diverso, cotto nel coccio. Oggi provo ad immaginare il tramonto sul mare. Il sole è una noce di luce che muore nel buio se spengo la lampada in sale. Don't know why, da parte resterò. Ripongo vestiti che forse mai più userò. Don't know why, da parte resterò. Ripongo vestiti che forse mai più userò. Qua Questa era Quarantena degli Oremeta, tratta dall'album Saudaci che stiamo presentando oggi come disco della settimana. Ecco, il disco è stato registrato tra le mura di casa all'ultimo piano di un palazzo di Ostia Lido, uno di quelli ai quali il maestrale strappa l'intonaco, insomma vicino al mare proprio, e dai quali di notte puoi sentire la risacca delle onde. Tra l'altro Ostia Lido me la immagino guardando anche i vari film che negli ultimi anni sono usciti. Ostia Lido è sempre rappresentato come un ambiente un po' cupo, un po' abbandonato, periferia, molto periferico, periferia di Roma diciamo alla fine. Ecco, loro dicono: la pandemia ci ha chiusi dentro o ha chiuso il mondo fuori, dipende dai punti di vista, ed è in questo spazio ristretto che noi ci siamo trovati abitando nello stesso condominio, appunto. È un po' quello che effettivamente molti di noi probabilmente sono trovati a fare. Hanno stretto, diciamo, in un qualche modo il loro legame in maniera un po' più forte durante questi mesi di pandemia, e infatti dicono che per continuare a sentirsi vivi si sono stretti gli uni agli altri e si sono raccontati un po' i ricordi che avevano, no? Hanno un po' delocalizzato la loro attenzione sui ricordi che avevano, ed è per questo appunto che all'interno del disco ci sono tanti appunti di viaggio, oppure tante vecchie lettere di amici o anche di amori che sono terminati, che sono finiti, di lotte sociali a Roma, di arte di strada. Insomma, all'interno delle 10 tracce questi tre ragazzi hanno proprio deciso di in un qualche modo fare un diario di quello che fino a quel momento hanno avevano voglia di raccontare. Saudaci appunto contiene 10 tracce, abbiamo sentito Quarantena, abbiamo sentito un'altra traccia all'inizio del disco della settimana, e adesso Mauro scegli tu. Visto che abbiamo parlato appunto di un diario, un po' di racconti, di Saudaci, quindi di momenti passati, vi facciamo ascoltare la traccia numero 9 che si chiama appunto Diario, ed è un brano scritto riordinando gli appunti di viaggio di due momenti diversi. La prima parte nel 2018, durante un periodo di vita trascorso in Spagna, a suonare per le strade, come buskers, spostandosi di città in città. E la seconda invece è del 2019, osservando da lontano un'Italia ancora infettata dal fascismo, l'Italia di Salvini al governo, l'Italia di Casa Pound, di Altaforte editrice, l'Italia delle spedizioni punitive ai campi Rom di Torre Maure, dei pestaggi a sfondo razziale ad Ostia. Quindi è un diario sia delle loro impressioni, dei loro racconti, ma anche di alcuni momenti piuttosto bui del passato recente del nostro paese. Quindi adesso vi lasciamo ascoltare Diario e poi vi raccontiamo ancora qualcosa su Saudaci degli Oremeta. Ladro di libri altrui, perché nel leggerli li faccio miei. L'alba le sta s'appresta. Spazi miei scaffali pagine di carta pesta. Partirei domani non ci fossi a dirmi resta. Tieni testa, poi che lesta. Nascosti i miei vestiti impedendo ch'io mi pesta. Siamo meno connessi al suolo da quando evitiamo la pioggia. Lei la sola che di roccia ha la grazia d'una goccia. L'acqua si ferma a mezz'aria, stanca su di lei s'appoggia. Il fuoco danza in ombre tonde, mangia legno che soccombe. Lancia l'ardore in onde laddove l'addome dorme. E lei dinanzi danza, risponde. Poi che altro vede altronde, ha imparato a stare al mondo dove il passo non ha impronte. Come dalla foce al monte, dalle mani alla fronte, ha invertito la corrente, genera luce dalle ombre. Genera luce dalle ombre. Ed io m'agito nel gesto, poi di calma che mi vesto, sfioro le pagine all'innesto. Ciò che mostro del resto, ciò che è il mostro che vesto, ciò che macero e pesto, ciò che è il mosto del testo. Viro mesto, seguendo un vento denso, come l'arca che si imbatterà in un angelo maldestro. Una barca che è la cattedra di un albero maestro. Solo mirando te tendiendo, però sin hablar tu idioma, solo cerrando los dos ojos, puede verlo tra persona desde Roma en Barcelona. Geografia de los recuerdos senza data e senza ora. Quiero ir en el lugar dove il giudizio non mi tange più. Dove se guardo su o guardo giù, vedo ad ogni modo il blu, chiudo gli occhi quando canti tu. Giuro non è il sangue blu, però il sangue blues. Chiudo gli occhi quando canti tu. Giuro non è il sangue blu. Però il sangue blues. Legno e carta, gli elementi, artigianato d'altri tempi, artista nato, poi che è nato, ve la lupa ai denti, identità. Per amore della mia città, non per appartenenza, chi appartiene è proprietà, che sia di patria, razza o d'una linea di pensiero morta. Mare casa mia non mi fa sprangare la porta. La mia paura non vuole gli altri chiusi fuori, fuori. Nella rete ponti ove tu poni muri, ma respiro a stento. se immagino loro fuori ed io con voi chiuso qui dentro. Non avessi scelto di cambiare mare, non sarei stato in Brasile quando a casa è Natale. Non avrei visto da lontano porci pestare il pane e gli stessi poi stuprare, però prima le italiane. Forse avrei io stesso visto, poiché nel mio quartiere 12 neri urlare negro a pugni schiudergli le arterie. Non avrei visto da lontano il ministro dalle gambe corte strappar nobiltà la carta, riuscire a vendere foglie morte da un'acqua verde e nera, da un flusso d'acque sporche. Non m'aspetto altra fonte che quella d'Altaforte. Da un'acqua verde e nera, da un flusso d'acque sporche. Non m'aspetto altra fonte che quella d'Altaforte. Torniamo a raccontarvi un pochino di questo disco della settimana. Ricordiamo che si chiama Saudagi, l'ho imparato anch'io che si dice così durante questo disco della settimana, ed è l'album di esordio degli Ore Meta. Gli Ore Meta sono tre elementi, Dario, Chiara e Giulio. Sono tre ragazzi che hanno vissuto la quarantena condividendo molto lo spazio, perché stavano tutti nello stesso palazzo di Ostia Lido, no? E Dario ha trascorso gli ultimi anni, diciamo, come nomade, artista di strada, forse anche questo riguarda appunto i racconti della Spagna, e ha suonato infatti in tante città e ha suonato in particolare l'armonica blues. I suoi appunti di viaggio sono quelli che sono poi stati il core, diciamo, delle canzoni di Saudagi. Chiara invece trascorre la sua vita sul palcoscenico, si è formata come attrice, più esattamente come performer, e si divide tra l'essere un'attrice, un insegnante di teatro, e insieme a Dario è la voce. Loro due sono le voci degli Ore Meta. Ma c'è un terzo componente, dicevamo. Il terzo componente è Giulio Geiger, spero di pronunciare bene il nome, che ha studiato come batterista alla St. Louis College of Music e ha portato avanti nel corso degli anni sia il suo percorso da musicista come batterista, suonando con diverse band, e allo stesso tempo anche come produttore, componendo dei brani strumentali e delle musiche originali per il teatro. Quindi in un qualche modo è tutto collegato, no? Chiara fa teatro e lui ha fatto musica per il teatro. Appunto, dicevamo che i tre ragazzi, vivendo nello stesso condominio a Ostia Lido, si sono trovati durante i primi mesi del lockdown a marzo a condividere ogni momento del giorno e della notte, no? Tutto il tempo assieme. E uno potrebbe dire che due maroni, invece loro hanno detto costruiamo qualcosa di buono, di positivo, e facciamo un album musicale. E infatti loro quello che dicono è suonare e comporre è stato un po' il modo per continuare a sentirsi vivi in questo periodo. Quindi hanno detto vabbè, dai, buttiamola sul creativo in un qualche modo, ed è un po' quello che è successo e ha portato alla creazione di Saudagi, che contiene 10 tracce. Però ne abbiamo ascoltate tre, ma vorremmo farvi sentire la traccia numero 10, Costa Nova. Ecco, tutti quanti ci siamo trovati nell'anno passato a fare delle videochiamate su Zoom, su tutti questi programmi Meet, eccetera eccetera, per sentirci anche mentre eravamo chiusi in casa, che due scatoline. Comunque, da questo nasce un po' anche Costa Nova. È un brano nato dalla nostalgia di un hermano lontano, quindi direi spagnolo, dalle lunghe telefonate con gli amici che, sparsi nel mondo, ci chiedevano come stessimo. E in questa canzone c'è un po' il ritmo della bossa nova che accompagna e ci permette di raccontare le giuste pulsazioni di questo sentimento di amici lontani. Perfetto, allora questa è Costa Nova e poi torniamo da voi per raccontarvi le ultime cose dei Ore Meta. Come está Itália na quarentena? E o Giulio e a Chiara, um grande abraço, força aí pra vocês, velho. Será como era querida espera, será Deus queira, será Deus será. Senti, são fiori que vivam do luto. Raccontarti questi giorni, perché non so in che lingua raccontarmi in questi giorni. Penso di scrivere su carta quelli che saranno ricordi, avrai da leggere per un anno intero quando torni. Siamo tornati ad incontrarci ad occhi chiusi, anche perché la città stessa ad essere assopita, ed il nostro baciarsi tra sconosciuti segue il leggersi l'un l'altro i volti con le dita. Contro muri immensi di casse, calde coperte di decibel per il nostro silenzio nudo. L'alba accende le prime case basse di due corpi, un'ombra unica sul cemento crudo, le radici d'ognuno. Riconosco ogni cucina, offre alle strade il suo profumo, il vento che gonfia la vela, infine strappa la gomena, sudore lungo la schiena. Chiaga rota, gipanema, danza un funky da favela. eppure sento che la mia prossima lettera sarà diversa. La nostalgia è più densa. Sarà lo scrivere a sera, saranno gli occhi del barrio chiusi, sarà cinesche a schiera. Come dicevamo, all'interno dei vari brani ci sono anche tante influenze, forse sono anche dovute al fatto che in particolare Dario ha viaggiato tantissimo e ha portato con sé tante influenze. C'è la bossa nova, ma c'è il rap, dicevamo prima, e ci sono anche tante lingue che si incontrano. E quello che ci dice Dario riguardo ai brani che ha creato, perché è lui il compositore dei testi, è che ciò che ha avuto più spazio e risonanza nei processi creativi in questi mesi sono stati appunto i ricordi. Per il video di Costanova, la canzone che abbiamo appena ascoltato, l'idea si è illuminata tornando indietro a quando organizzavamo cene con gli amici, mamma mia quanto tempo fa, e a quando ancora potevamo lanciare tutti i cappotti in camera, stare insieme ed entrare in 10 in una foto, insomma, ci dice. Quindi hanno provato a raccontare anche attraverso il video quello che è un po' il sentimento che decidono di trasmetterci, come dicevamo, anche perché loro quello che ci dicono è che sì, hanno fatto una sorta di diario di quello che hanno provato, ma il desiderio, ovviamente, il loro, come quello un po' di tutti, è quello di tornare a una normalità di vicinanza, di libertà e anche una normalità fatta di assenza di paura in un qualche modo. Ecco, in quest'album degli Ore Meta, ma come tanti album usciti tra il 2020, quest'inizio 2021, chi più chi meno, tutta la questione legata al lockdown, al Covid, eccetera eccetera, influenza un po', cioè lo raccontano proprio con alcune canzoni, come abbiamo ascoltato Quarantena, raccontano proprio la quarantena, non a caso il nome è quello. La Saudagi è anche un po' un sentimento di voglia di ritorno alla normalità, un desiderio, una speranza, come spiegano poi anche loro appunto il significato di questa parola intraducibile in altre lingue. L'album, come vi abbiamo detto, è uscito il 15 gennaio, è l'album d'esordio di questo trio di Ostia Lido, quindi periferia di Roma, possiamo dire. E quindi per salutarci e per finire di raccontarvi un po' il disco della settimana che abbiamo scelto per voi, usiamo il brano numero 8. Il brano numero 8 si chiama Passaporto e ci dicono che è un brano nato come un flusso di coscienza, in uno sfogo di rabbia, dopo aver letto Le vene aperte dell'America Latina di Eduardo Galeano. È un libro che costruisce la storia del Sud America, che ricostruisce la storia del Sud America con le parole degli oppressi e non dei vincitori. Ecco, anche in questo caso ci metto della politica, dell'impegno sociale nei brani. Noi allora speriamo che il vostro Blue Monday sia un po' migliorato con le canzoni che vi abbiamo fatto ascoltare. Vi auguriamo una buona settimana, vi lasciamo con l'ultima traccia appunto del disco che vi ricordiamo è uscito il 15 gennaio e ci sentiamo mercoledì con l'intervista. Passo al molo più tempo di quanto ne passi a bordo, ciò che d'interno ho risolto, grazie al mare a cui mi sono rivolto. L'unico silenzio che mi permette l'ascolto, in silenzio passo il porto, quindi non passa molto che senza grande sforzo faccio a pezzi il passaporto. Ancora chi tace accolgo, per quanto riguarda, lei mi ha scolpito il volto, per quanto mi guarda. Al largo mi raccolgo e intanto mi racconto, se c'è chi si spoglia oggi, ma domani non si vestirà. Io credevo nella musica di strada, la sua forza ad unire. Oggi mi spacco la faccia su di uno scudo in plexiglass e poi sputo molari come ossa d'olive. Il mare s'apre e si richiude, rimargina sue ferite. Ciò che rimane all'interno sono anime rapite. Chi schiera soldati al fronte riempie fosse marine, muore dentro chi spera un altro possa morire. Le anime che sprezzi, delle vite che spezzi, possiedono una nobiltà la quale tu non puoi ambire. Che i padri del seme dell'odio siano funghi senza spore, morti nel divenire, figli, serpenti senza spire. Libri sotto le suole, caschi blu sotto le scuole, ora Cardinal Capranica son sicure le aule vuote. Se sei padre spiega come a tuo figlio o tua figlia la proposta alternativa, la casa d'una famiglia, possano essere i figli divisi in casa e famiglia. Pagarono in foglie di coca, operai della cocaina, chi coltiva canna da zucchero a carne d'uomo la concima. Il sole spacca le labbra di chi sorride prima, la metà Europa sulle vene dell'America Latina. La metà Europa sulle vene. Vivo rivolto verso dentro come chi vive introverso. Scrivo per non parlare, quindi non bell'intro nel verso. Mi proteggo, non mi vesto, volto le spalle a chi amo, solo se dormo riverso. Il tramonto, da dove siedo, sembra vi sia un incendio dietro le montagne. Se tocco le carte di Galeano, in bocca sento il sapore di carne.